Cialtroni nello spazio. La trasmissione informatica. Software libero. Il libero accesso al sapere. Mercoledì 12:40. Free software. Cooperativi. Copyleft. Open office. BSD. Sharing. Giochetto. Vision. Sicurezza. Span. Filtri Bayesian. Errore nel modulo XY della memoria. Serve l'arbitro.